Ottobre piovono libri. Oggi vi porto in provincia di Vicenza, precisamente a Montebello Vicentino. Per ottobre piovono libri è stata organizzata una mostra sul fumetto. L'ha vista per noi Paolo Usinabia, che ha anche incontrato alcuni visitatori appassionati del genere. Graphic novel, romanzo grafico, romanzo fumetto. Vari modi per definire una forma letteraria relativamente recente, originale, accattivante, nella quale l'immagine, la grafica ed il testo si equivalgono nella narrazione. Ha visto i suoi primi grandi esempi negli anni 60 e 70, ma solo in tempi recenti ha avuto uno sviluppo e ha un seguito che non si può certo dire di nicchia. E lo conferma l'interesse che vi è attorno alla mostra Il romanzo nel fumetto, quando il fumetto diventa romanzo, allestita dalla Biblioteca Civica di Montebello Vicentino in collaborazione con la Sergio Bonelli, casa editrice leader del mercato del fumetto in Italia. Una piccola ma completa galleria che propone e spiega alcuni classici di questo genere, come Will Eisner, Corto Maltese, Hugo Pratt, Alan Moore. Questa mostra spazia tra i vari generi, anche il genere di disegno, e quindi un visitatore si può trovare soddisfatto. Cosa consiglieresti di leggere a uno che non conosce questo genere? Consiglierei sicuramente V per Vendetta di Alan Moore, poi consiglierei La mia vita disegnata male di Gipi, e poi Chernobyl dell'Abeco Giallo. Fantasy giallo, ma anche tematiche più impegnate, le vicende che hanno segnato la nostra storia, come il Maus di Art Spiegelman, che ripropone la tragedia dell'Olocausto. Tutte le persone sono rappresentate come degli animali, ad esempio gli ebrei sono rappresentati come topi, i polacchi come dei maiali e i tedeschi come dei gatti, appunto gatti topi, ed è veramente, mi ha fatto piangere quel fumetto. Io pianto su quel fumetto perché è meraviglioso. La mostra è Il romanzo nel fumetto, quando il fumetto diventa romanzo, rimarrà aperta a Montebello Vicentino fino a metà novembre. Per le informazioni su queste e le altre iniziative di ottobre piovono libri, www.cepel.it oppure radio24.it. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco. Ottobre piovono libri, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura.